Allora, cioè, adesso siamo nel pieno di 3 giornate di mobilitazione qua in Francia, si è partiti da ieri con un grande sciopero generale, una manifestazione intersindacale che ha visto partecipare quasi 20.000 persone, in cui gli studenti sono riusciti a prendersi la testa e pensare a alcuni momenti di conflitto. Adesso noi stiamo avendo qualche problema perché abbiamo la polizia, non ci vuole far entrare a Place de la République, dove ci dovrebbe essere un concentramento perché per oggi le guardie, cioè la polizia, il sindacato di polizia ha indetto uno sciopero proprio a Place de la République. Alcuni collettivi si sono organizzati per concentrarsi in piazza prima del sindacato di polizia, ma in questo momento la piazza è completamente blindata e non si stanno facendo entrare, penso. Vabbè, domani pure ci sarà un'altra grande giornata per lanciare i sindacati, ma qui parteciperanno anche i diversi collettivi studenteschi. Ciò che abbiamo visto ieri è stata la partecipazione massiccia di un'espressione giovanile forte che è riuscito a causare alcuni movimenti di rottura importanti, come la cacciata della CGT, che è il sindacato che noi potremmo riferire alla CGL, che ha un servizio d'ordine di polizia, quindi sindacalisti di polizia, che sono gli stessi che hanno indetto il presidio oggi, che fanno servizio d'ordine all'interno della manifestazione, quindi è come avere degli organi della polizia all'interno della propria manifestazione che gestiscono uno spezzone del corteo. Lo spezzone giovanile è riuscito a cacciare questi elementi dalla manifestazione, proseguendo in una specie di corteo selvaggio a inseguirsi con la polizia lungo le vie di Montparnasse. La data di ieri è la data che ha fatto capire che ancora il movimento contro la loi travail non è morto e sicuramente non si riduce a Place de la République. Place de la République è un luogo in cui ogni sera si incontrano centinaia di persone, ma senza sembra avere un obiettivo, nel senso che non, anche riuscendo a radunarsi in così tanti, sono riusciti sì sicuramente a ridare socialità a una piazza, a riprendersi in un luogo pubblico, ma dall'altra parte vediamo come non riescono a sfruttare ciò che accade ogni sera in questa piazza, molto confusa, attraversata da molte componenti diverse, e sembra quasi essere diventata il luogo di ritrovo del ceto medio borghese parigino, che viene qua per bersi una birra piuttosto che per seguirsi l'assemblea, ma non per attuare un reale momento di crescita politica o anche per attuare un qualcosa di movimento. Abbiamo visto attraversare questa piazza da componenti totalmente diversi che non si legavano l'una con l'altra, e in realtà è molto difficile da analizzare, non siamo riuscire a capire effettivamente se ci fosse una linea che collegasse tutto ciò. Comunque vi passo l'altra compagna che sta qui con me, che vi spiegherà un po' meglio le dinamiche del presidio di oggi. Ciao a tutti e tutte, allora adesso siamo a Place de la République, dove qualche settimana fa i sindacati della polizia hanno lanciato una piazza statica per denunciare proprio la violenza nei confronti della polizia. Fra questi sindacati vediamo quello della CGT, che è tipo uno dei sindacati più importanti qui in Francia, e questi hanno appunto deciso di riunirsi qua. Non è mancata però la risposta da parte del Nidebu, che ha risposto su un comunicato su internet affermando appunto che lascerà sfilare indisturbata la polizia, che rilascerà la piazza proprio per non rispondere alle provocazioni. Vediamo quindi come la Nuit Debout voglia ancora un'altra volta discostarsi da tutti quei movimenti che ogni giorno e ogni notte portano alla lotta nelle strade. La risposta però da parte dei vari movimenti non è mancata, hanno affermato infatti che alle 11 adesso a Place de la République si sarebbero incontrati per impedire appunto il radunamento di tutta la polizia, che da anni ormai in tutta Europa, ma adesso soprattutto più che mai qua in Francia, aumenta la repressione, i metodi di repressione, vediamo appunto soprattutto nelle piazze francesi, anche stiamo aspettando proprio qua, vediamo tutta la piazza completamente blindata, non fanno entrare nessun manifestante al suo interno e la polizia controlla appunto tutti gli accessi alla piazza, vediamo insomma cosa si andrà a produrre in questa giornata. Comunque domani ci sarà inoltre un'altra giornata di lotta e vedremo tutti i vari movimenti scendere in piazza. Ciao a tutti e tutte, buona giornata. E vi ringraziamo e insomma ci risentiamo anche per riaggiornarci su questi appuntamenti che ci hai dato e anche più tardi durante la giornata per vedere se insomma si è riusciti poi a entrare nella piazza e a produrre momenti di conflitto e di lotta.